GR24, il 24 ore. Un premio osceno, l'ira di Pechino per il Nobel per la pace a Liu Xiaobo, dissidente in carcere per la democrazia. Studenti in piazza, tensione fumogeni a Milano, il ministro Gelmini, noi vogliamo riforme. Collisione al largo della Bretagna, solventi chimici si riversano in mare. Riccardo Muti dirigerà la prima al Teatro dell'Opera, Le Manno ha un rapporto profondo con Roma. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Sono già arrivate dure reazioni da Pechino sull'assegnazione del Nobel per la pace. È andato, ve l'abbiamo raccontato in diretta questa mattina, il dissidente Liu Xiaobo, già anima della rivolta di Tiananmen, è oggi in carcere. Andiamo allora a Pechino da Antonio Talia. Sì, buongiorno. Sono reazioni durissime quelle che sono arrivate dal Ministero degli Esteri di Pechino. Il Ministero degli Esteri ha definito un'oscenità che va contro i principi di questo premio l'assegnazione a Liu Xiaobo del premio Nobel. Il Nobel per la pace, si legge in questo comunicato del Ministero degli Esteri, dovrebbe andare a chi lavora per promuovere l'armonia etnica, l'amicizia internazionale e il disarmo, e a chi partecipa a riunioni di pace. Questo era l'intendimento di Alfred Nobel. Contemporaneamente su tutti i principali quotidiani online cinesi sono completamente scomparse le notizie relative al premio Nobel. C'è stata la censura della cerimonia della BBC, che appunto era in diretta anche sulla televisione cinese, e sono arrivate anche le reazioni nei confronti della famiglia. La moglie di Liu Xiaobo, Liu Xia, che vive a Pechino, è riuscita a fare filtrare le sue reazioni dicendosi orgogliosa del premio che è stato assegnato al marito. È stata però raggiunta in casa da alcuni funzionari della polizia cinese che le avrebbero intimato di non rilasciare dichiarazioni alla stampa. Liu Xia è però riuscita a fare sapere che domani vedrà il marito, che ancora non è a conoscenza dell'assegnazione del premio Nobel per la pace 2010. A voi studio. Grazie ad Antonio Talia. Naturalmente ci saranno anche altre reazioni. Una figura importante è quella di Liu Xiaobo per la Cina. Ne parleremo ancora allora tra poco in un ampio speciale alle 13:15. In Italia ora, dove oggi gli studenti sono in piazza contro la riforma della scuola, qualche tensione c'è stata a Milano. È arrivata da poco davanti al provveditorato di via Ripamonti, la manifestazione è partita poco dopo le 9 da Largo Cairoli a Milano. Durante il corteo sono stati scanditi slogan contro il ministro Gelmini e contro il governo. Questa riforma è un grosso contenitore in cui sono finite dentro 3 ondate di tagli e già le prime 2 sono entrate in vigore e hanno devastato completamente la scuola. È iniziato tutto nel totale caos di professori che mancano, ore di lezione che saltano, laboratori che non esistono più. Secondo un responsabile del collettivo studentesco sarebbero 20.000 i manifestanti, si attendono le cifre della questura. Il corteo si è svolto senza particolari disordini, a parte il lancio di 2 fumogeni e alcune persone che hanno imbrattato i palazzi del centro con della vernice. Marco Subert, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Così a Milano cortei sono in corso in oltre 100 città, bisogna avere il coraggio di cambiare, è stata la risposta arrivata dal ministro per l'istruzione Maria Stella Gelmini, è indispensabile, ha detto, proseguire sulla strada delle riforme. E intanto è arrivata oggi la conferma della condanna per un altro ministro dell'istruzione, l'oggi sindaco di Milano, Letizia Moratti. Condotta contraria alla legge con colpa grave e produttiva di danno erariale per 185.000 euro. Dopo un iter giuridico durato quasi 6 anni, il sindaco di Milano, Letizia Moratti, è stata condannata in appello dalla Corte dei Conti per una consulenza affidata a Ernst & Young nel 2001, quando era ministro dell'istruzione. Consulenza finalizzata alla riorganizzazione del ministero, ma giudicata dalla magistratura contabile inutile e antigiuridica. Esprimendo un giudizio di riprovevolezza nei confronti della Moratti per aver gravemente sottovalutato gli interessi pubblici, la Corte dei Conti l'ha così condannata a risarcire 50.000 euro. Negli anni scorsi il sindaco di Milano era già finito 2 volte nel mirino della magistratura contabile, ma per le cosiddette consulenze d'oro affidate durante il suo incarico a Palazzo Marino. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un cargo contenente 6.000 tonnellate di solventi chimici si trova in grande difficoltà dopo una collisione con un'altra imbarcazione al largo della Bretagna, nel nord-ovest della Francia. Il suo equipaggio è stato evacuato. Da Parigi è arrivato l'allarme, lo scafo dell'imbarcazione è stato danneggiato, si sta cercando di capire se e quante siano le fuoriuscite dall'imbarcazione. Intanto gli effetti dell'inquinamento invece nel Danubio sembrano normalizzarsi lentamente in Ungheria dopo il grave incidente industriale di lunedì. Nella confluenza tra il fiume Rabe e il Danubio restano morie di pesci, ma anche qui la situazione, dicono gli esperti, va migliorando. E questa mattina in Italia la Protezione Civile ha fatto il punto sul terremoto in Abruzzo. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Difendere quanto fatto finora all'Aquila dagli attacchi e dalle polemiche, questo il senso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. A prendere la parola è stato per primo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta, il quale ha voluto più volte sottolineare come la ricostruzione in Abruzzo sia sempre rimasta una priorità per questo governo e che le polemiche di chi pensa il contrario, a suo dire, sono pretestose e strumentali. A snocciolare dati è stato invece il presidente della Regione Abruzzo, che è anche commissario delegato per la ricostruzione post-sisma, Gianni Chiodi. Non è vero, ha detto Chiodi, che all'Aquila ci sono 50.000 persone senza tetto. Chiodi ha spiegato che le persone prive di stabile abitazione sono 3.179 ospitate in caserme e hotel, persone che però nella maggior parte dei casi sono titolari di abitazioni che stanno riparando e quindi si tratta di una sistemazione temporanea, e quelli realmente senza tetto sono 600. Altre cifre, i cantieri aperti sono 12.000, mentre sono disponibili in cassa 714 milioni di euro nel conto del commissario della ricostruzione. Per quanto riguarda poi i centri storici, ha detto ancora Chiodi, la legge affida la ricostruzione ai sindaci dei comuni, quindi il ritardo non può essere attribuito al governo. Per il capo della Protezione Civile Bertolaso ci vorranno comunque 10 anni per riavere il centro storico dell'Aquila. E ancora il capitolo aziende, pagati ad oggi 30 milioni di euro per i danni che le imprese hanno subito. E infine una notizia curiosa che ha dato Gianni Letta: il premier Silvio Berlusconi avrebbe staccato un assegno di 200.000 euro per l'Aquila Rugby, la storica società sportiva aquilana, che avrebbe rischiato per mancanza di fondi di sparire dal campionato. E da Roma è tutto. Privatizzare la RAI è la proposta arrivata ieri sera dal presidente della Camera Gianfranco Fini durante la trasmissione Anno Zero. È stata questa la domanda anche del nostro sondaggio di questa mattina. Volete una RAI privatizzata? Il 72% di voi ha risposto sì al nostro sondaggio. Che ne pensa la politica? Le reazioni, Elisabetta Fiorito. Privatizzare la RAI, come hai detto tu Anna, fare il lodo Alfano, ma non stravolgere la giustizia con il processo breve, sono solo alcune delle proposte fatte dal presidente della Camera Gianfranco Fini ieri ad Anno Zero. Oggi invece Fini è a Palermo per occuparsi di criminalità organizzata e auspica che venga reciso ogni legame tra mafia e politica e chiede più risorse a magistrati e forze dell'ordine. Ma sentiamo il presidente della Camera. Priorità di tagliare ogni legame tra mafia e politica. Non ci si può affidare a questo riguardo soltanto all'eroismo e al disinteresse personale, che pure dovrebbero essere valori ispiratori dell'etica pubblica. Altro ambito di intervento parlamentare è costituito dalla messa a disposizione delle risorse tecniche necessarie alle forze dell'ordine e alla magistratura. Ancora dissapori nella maggioranza, nessuna guerra in atto con Berlusconi, precisa il leader dell'MPA e presidente della Sicilia Raffaele Lombardo. Da parte nostra c'è un rapporto non solo istituzionalmente corretto e politicamente positivo, mi auguro che possa migliorare. Ignazio La Russa invece scrive al Secolo per smentire la notizia che gli ex DN siano stati richiamati all'ordine dal premier Silvio Berlusconi. Ricordiamo invece ieri la spaccatura sul processo breve proprio tra Berlusconi e Fini. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Una storia di resistenza alla mafia, quella intanto del sindaco di Niscemi in provincia di Caltanissetta, ve la racconteremo in Italia in Controluce alle 13.30. Spendono di più le famiglie italiane rispetto ad un anno fa. Nel secondo trimestre il reddito disponibile ha registrato una crescita dello 0,9% rispetto ai 3 mesi precedenti. Questi dati diffusi questa mattina dall'Istat. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente c'è stato un incremento del 2,3% della spesa per consumi finali. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2010 noi abbiamo avuto una crescita grosso modo intorno al 10-12% e nel 2009 praticamente si era bloccata la nostra crescita, 2008-2009 due anni praticamente a zero e fortunatamente si è rimesso in moto tutto. Ha curato gli arredi del centro gastronomico Italy a New York, Costa Group, azienda ligure di fama internazionale dei fratelli Franco e Sandro Costa, specializzata nell'arredamento creativo di locali pubblici per il settore del food entertainment. 11.000 metri quadri immersi nel verde, nel contesto industriale di Riccò del Golfo, vicino al porto di La Spezia. Ecco perché l'impresa, che opera da 30 anni, è ripartita secondo il co-titolare Franco Costa. Capire immediatamente dovevamo cambiare la clientela, rivolgerci a mercati diversi. Noi siamo riusciti ad andare prima di tutto all'estero e rivolgerci ai grandi mercati internazionali. Per quanto riguarda i mercati italiani, ci siamo rivolti a un pubblico nuovo, che era quello della grande distribuzione, arrivando al massimo creando tutto l'arredo di Italy a New York. In controtendenza siamo riusciti a fare grandissima economia all'interno dell'azienda, che prima erano assolutamente trascurate. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Attentato questa mattina in Afghanistan, è stata colpita una moschea della provincia di Takhar. Oggi venerdì, giorno di preghiera, almeno 20 le vittime, tra loro il governatore della provincia. E in udienza da Benedetto XVI stamani il presidente francese Nicolas Sarkozy. Dopo le polemiche di quest'estate con la Chiesa Cattolica seguite agli sgombri dei campi nomadi in Francia, il presidente Nicolas Sarkozy è oggi in Vaticano per una visita di poche ore al Papa. Prima l'incontro con il pontefice, poi quello con il segretario di Stato Tarcisio Bertone. La visita in Vaticano, senza la moglie Carla Bruni al seguito, è un'idea dell'Eliseo dopo che la conferenza episcopale francese e un esponente della Santa Sede hanno criticato le espulsioni dei Rom decise da Parigi. E dopo le parole pronunciate dal Papa stesso all'Angelus del 22 agosto, quando al momento dei saluti in francese aveva invitato ad accogliere le legittime diversità umane. La vicenda dei Rom ha peggiorato il rapporto di Sarkozy con l'elettorato cattolico francese e una riconciliazione per lui fondamentale in vista delle presidenziali del 2012. Proprio in questi giorni il capo di Stato d'Oltralpe ha lanciato segnali distensivi alle comunità dei nomadi francesi, incaricando i suoi collaboratori di ricevere all'Eliseo i diversi organismi che li rappresentano per riflettere ad un miglioramento della loro situazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un ritorno in Italia. Riccardo Muti dirigerà la prima al Teatro dell'Opera di Roma e progressivamente si giungerà anche ad una formalizzazione del rapporto con il maestro, dice a Radio 24 il sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Muti già ha messo il suo timbro, la sua ispirazione all'attuale stagione, dirigerà la prima, ci sono tutte persone che hanno profondi rapporti con lui nella direzione artistica, ha fatto la selezione dei maestri d'orchestra, ormai c'è un rapporto profondo fra Roma, l'Opera di Roma e Muti. Da questo rapporto profondo progressivamente aggiungeremo anche una formalizzazione, ma senza tirare la giacca al maestro, perché è il modo più sbagliato per mettere in difficoltà lui e il Teatro dell'Opera. Le 13:13, ci fermiamo qui oggi per lasciare spazio allo speciale, come vi abbiamo detto, sull'assegnazione del Nobel per la pace andato al cinese Liu Xiaobo. Vi lascio con Cristina Balotelli, in regia Pietro Lacorte, ancora un saluto da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.